Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Cervignano Gino Cecchettini, il padre di Giulia, ho imparato da lei che il bene genera bene. Ciclismo, Jonathan Milan oro ai mondiali in Danimarca sul record dell'inseguimento individuale. Plasma Friuli Venezia Giulia, regione virtuosa per la raccolta, quasi il doppio della media italiana. Diminuisce anche in regione la dimensione dell'economia sommersa nel 2021, calata di 206 milioni. Calcio, l'Udinese giocherà San Siro contro il Milan, non ci sarà Tovena ad affiancare Luca, ci sarà Brenner. In Serie C la Triestina ospita la Virtus Verona, sugli spalti anche il prossimo allenatore, il catalano Pep Clotet. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Disagio, carcere, lotta alla violenza di genere, democrazia, informazione, ambiente, migrazioni, c'è l'attualità al centro del Festival del Coraggio di Cervignano del Friuli, dove oggi è arrivato Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane donna veneta uccisa ormai quasi un anno fa dall'ex fidanzato e il cui corpo venne trovato nella zona di Barci, su un caso di femminicidio che aveva sollevato un'ondata di emozioni e indignazione nel paese. Quello che ho imparato da Giulia è che il bene genera bene. Il coraggio di un uomo che ha perso la figlia nella maniera più atroce. Gino Cecchettin, al festival dedicato proprio al coraggio di Cervignano, parla con il cuore in mano agli studenti dell'ISIS Bassa Friulana, ragazzi e ragazze che gli dedicano attenzione, domande, applausi e soprattutto comprensione. Dal palco del teatro Pasolini, il padre della ragazza uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta parla del valore di un no, di educazione. I no aiutano a crescere perché portano a frustrazione ma anche al sapersi conquistare le cose, accettare alle medie il no all'acquisto di un cellulare o a un concerto, fortifica e aiuta a prendersi qualche no d'amore più avanti. Cecchettin, che ricorda la fortuna di aver avuto a fianco la figlia per 22 anni, sorprende la platea quando racconta di non provare risentimento nei confronti dell'omicida della figlia. Il sentimento d'ira mi farebbe male e con rabbia e desiderio di vendetta non si vive bene. Gli aneddoti si susseguono nel racconto e riguardano anche gli altri due figli, Elena e Davide, coetaneo dei ragazzi a cui parla. Ma è su Giulia in quanto simbolo che si sofferma con dolore ma anche con consapevolezza. Lei parla a tutti, ha detto, la dimensione collettiva della nostra tragedia si è trasformata in positività, raccontarla aiuta. All'inizio non capivo cosa c'entrasse il patriarcato con una storia che per me era di sola gelosia, invece porta il maschio a sentirsi più importante, a voler risolvere tutto con la forza, quando invece bisogna educare la solidità, perché serve solidità a chiedere scusa, a venire a patti con la propria coscienza. Cervignano del Friuli, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anticipiamo la pagina sportiva per parlare ancora della straordinaria prestazione di Jonathan Milan, che ieri sera ha vinto il titolo mondiale nell'inseguimento individuale ai campionati di Ballerup in Danimarca. La consacrazione per un atleta nel pieno della maturità e che sembra destinato a essere un protagonista ancora per molti anni. Un campione gentile che riscrive la storia del suo sport. Jonathan Milan ha 24 anni, ha già messo in cascina un oro e un bronzo olimpici a squadre e due titoli mondiali. Ieri sera il primo successo iridato individuale. Una prestazione devastante, una gara tutta all'attacco con il britannico Charlton staccato nei primi due chilometri di più di un secondo e mezzo e poi disperatamente alla ricerca di una rimonta impossibile. Alla fine tra i due c'è oltre un secondo e il tempo di Milan vale il primato del mondo, 3 minuti 59 secondi, 153 millesimi, 60 km e 200 metri all'ora di velocità media. E dopo il successo, la festa e le lacrime di gioia con tutto il team azzurro e in tribuna con mamma Elena, papà Flavio e gli amici arrivati dal Friuli. Milan rinverdisce un alloro lontanissimo, quello di Gino Pancino da Domanins, che conquistò il titolo iridato nel 66 nell'inseguimento a squadre, ma nell'individuale il primo nome friulano nell'albo d'oro della specialità è il suo, ed è un albo d'oro nobilissimo per restare all'azzurro, comprende tra l'altro i nomi di Fausto Coppi, Francesco Moser e per sei volte quello di Filippo Ganna, il capitano azzurro della velocità, dal quale Milan sembra intenzionato a raccogliere il testimone. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più virtuose per la raccolta del plasma, lo dice Andrea Bontadini, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone e coordinatore del Centro Regionale Sangue. La produzione per 1000 abitanti è quasi il doppio della media italiana. Lo abbiamo incontrato al convegno a Udine sulla donazione di plasma, una sfida per il futuro. Sentiamo. Noi produciamo come regione Friuli Venezia Giulia 25 kg di plasma per 1000 abitanti contro una media nazionale di 14 kg. È una delle regioni più virtuose da questo punto di vista per la produzione grazie al contributo delle associazioni del sangue e donatori che vogliamo sempre ringraziare per la loro donazione. Noi in Italia non abbiamo ancora raggiunto l'autosufficienza nazionale ed è per questo motivo che la nostra regione sfiderà naturalmente per la produzione di plasma e contribuire attivamente anche all'autosufficienza nazionale per il raggiungimento di produzione di farmaci salvavita e rendere l'Italia autonoma rispetto ai mercati liberi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Diminuisce in tutte le regioni d'Italia, tranne che in Molise, la dimensione dell'economia non osservata, composta da sottodichiarazione, lavoro irregolare e altre attività non dichiarate. In Friuli Venezia Giulia nel 2021, gli ultimi dati disponibili, la contrazione è stata pari a 206 milioni rispetto al 2019. In termini percentuali la diminuzione è stata del 5,7%, un dato leggermente superiore a quello medio nazionale. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, sempre in valore assoluto le contrazioni più importanti hanno riguardato il Lazio con meno 2,2 miliardi di euro, la Lombardia meno 1,9 miliardi, la Campania con meno 1 miliardo. Ci sono due unità di misura per valutare il peso dell'economia non osservata in valore assoluto o in termini percentuali sul valore aggiunto regionale. Se si fa ricorso alla prima modalità, il fenomeno si concentra nelle regioni settentrionali che tendenzialmente sono caratterizzate da un maggior numero di abitanti e con un livello di ricchezza prodotta superiore alla media. Infatti l'impatto più elevato dell'economia non osservata si registra in Lombardia con oltre 31 miliardi di euro. Diversamente, se si prende come parametro l'incidenza percentuale sul valore aggiunto regionale, praticamente sul PIL, la realtà più investita è la Calabria con il 19,2%. Il Friuli Venezia Giulia si colloca tra le regioni più fedeli al fisco con un 9,4%. Il digitale nella scuola e nel lavoro è il tema dell'evento Competenze Digitali e Cyber Security per l'Intelligenza Artificiale organizzato dall'AICA, l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. Si tiene a Tavagnacco, nel Palazzo del Municipio. Durante l'incontro presentate le Olimpiadi di Informatica che nel 2025 si terranno per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Udine infatti ospiterà le finali italiane e l'edizione Balkans. Ad Antonio Piva, presidente dell'AICA, abbiamo chiesto quanto siamo preparati sui temi dell'informatica e del digitale. Abbiamo fatto un assessment delle competenze digitali un po' a 700 persone delle scuole del Friuli Venezia Giulia ed è emerso sostanzialmente che per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, diciamo la sufficienza dei ragazzi che vanno dai seconda superiore a quinta più o meno è circa il 20%, quindi viceversa l'80% sono insufficienti diciamo rispetto all'asticella classica, mentre il 15% è sufficiente sui test di cyber security, quindi vuol dire che oltre l'80% è insufficiente diciamo, no? Quindi vuol dire che di fatto siamo anche messi male, perché immaginiamo uno che guida sulla strada e i ragazzi guidano sulla strada ogni giorno perché hanno smartphone eccetera, no? Che conosca solo il 50-60% dei segnali stradali e quindi vuol dire che questi si schiantano, no? Cioè nell'arco di due giri in macchina o in motorino questi si schiantano, no? Vuol dire che l'Italia è al credo quint'ultimo posto nelle conoscenze dell'intelligenza artificiale rispetto ai 30 circa paesi, i primi sono sempre i soliti paesi del nord. Come si può colmare questa lacuna? Abbiamo dato a 600 ragazzi e alle 10-12 scuole presenti, abbiamo dato gratuitamente, oltre che l'assessment, anche tutte le video lezioni, tutto il materiale didattico, eccetera, eccetera, che possono dare ai ragazzi per prepararli sull'uso consapevole del digitale, perché intendiamoci, l'uso consapevole del digitale, da un lato cyber security, da un altro intelligenza artificiale, ma c'è tutta una tematica del lavoro d'ufficio, per capirci Office, Word, Excel, eccetera, eccetera, dove noi non siamo messi benissimo. Montagna leader, oltre 31 milioni di euro di progetti gestiti in 5 anni, se ne è parlato oggi a Malnisio della Consortile con sede a Maniago, che è uno dei 5 GAL in regione e dei 200 italiani il servizio. Economia e comunità per il futuro della montagna, l'ex centrale idroelettrica di Malnisio, un convegno per fare il punto su progetti e sfide legati alle attività di Montagna Leader, società consortile che si impegna per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e rurali del Friuli occidentale e uno dei 5 GAL, gruppi di azione locale, in regione. Emanuele Parpinelli è presidente del GAL Montagna Leader. Con questo convegno diciamo che si chiude la programmazione che è iniziata nel 2018 e che ha consentito di erogare su questo territorio oltre 6 milioni di risorse, 6 milioni di euro di risorse a favore di oltre 150 progetti che sono stati portati avanti da aziende agricole, esercizi commerciali, associazioni, enti pubblici, cooperative di comunità. Quindi una quantità di progetti elevata e diffusa su tutto questo territorio che a nostro parere consente di continuare a valorizzare questo territorio e anche a farlo conoscere. Fare rete, la chiave per vivere e lavorare in montagna anche per i più giovani. Le storie degli imprenditori come quella di Francesco Ferraro, Borgo Titol, Tramonti di Sopra. Siamo riusciti grazie ai fondi di Montagna Leader a dedicarci a nuove attività e a svilupparne di altre, ad esempio l'ultimazione di un nuovo laboratorio adibito alla produzione della pitina IGP. Lino Miana, agriturismo ai Pradons di Meduno. Fare imprenditoria di quel tipo qui in montagna è complicato non solo per la decentrazione, siamo decentrati rispetto al normale territorio, però abbiamo anche delle grandi risorse, abbiamo un turismo importante che viene dall'estero, abbiamo bisogno di coordinarci, abbiamo bisogno di lavorare insieme e abbiamo bisogno di mettere insieme in una specie di patto tutte quelle che sono i protagonisti di un possibile sviluppo montano. Malnisio, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Prosegue a Udine il festival Mimesis, filosofia e trasformazione digitale. Oltre 70 tra filosofi, scienziati, scrittori, ingegneri, politici si confrontano sulla presenza delle intelligenze artificiali, dei dispositivi digitali e dei sistemi virtuali nelle nostre vite. Alle 16.30 al Museo Casa Cavazzini, la svolta biopsichica con Franco Fabbro, autore del saggio, e Giovanni Leghissa. Alla stessa ora all'Oratorio del Cristo, l'incontro Pensare la vita tra Oriente e Occidente con Massimo Donà ed Emanuela Magno. Alle 17 nell'aula T9 di Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman, Sentimenti digitali e sovranità intergenerazionale con Sebastiano Maffettone e Alessandro Ferrara. Sempre alle 17 ma alla libreria Tarantola, Sogno lucido. Francesco Tormen presenta Con gli occhi aperti il sogno lucido tra neuroscienze ed esperienze contemplative. Alle 18 ancora a Casa Cavazzini, Filosofia, formazione e mondi digitali con Nicoletta Cusano e Silvano Tagliagambe. Ultimo incontro alle 19 all'Oratorio del Cristo, meditazione e società con Stefano Bettera, Marcello Veneziani e Luca Gallesi. Uno sguardo al meteo, ora il cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste, Gorizia e Pordenone 18 gradi, a Udine 19. A Tolmezzo 14 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 12, a Tarvisio 10, a Sappada 9 gradi, sul Monte Lussari 7 gradi, 8 sullo Zoncolan, a Grado e Lignano 19 gradi. E queste sono le previsioni per oggi, cielo variabile con alternanza di schiarite a momenti di con nuvolosità anche consistente, in serata possibili deboli piogge tra il Pordenonese e la Laguna. Sulla costa soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute in serata sul Carso e a Trieste. Anche l'ultima emergenza maltempo si è dunque esaurita, Sacile le strade invase ieri dall'acqua sono state riaperte, così come negli altri centri della destra Tagliamento più colpiti dalle forte i precipitazioni delle ultime 24 ore. Tra questi Caneva, da dove ascoltiamo il punto del sindaco Dino Salatin. La situazione nella frazione di Fratta, in cui ieri sera fino alle ore 10:30-11 circa c'era molta acqua sulla strada, è rientrata. Le pompe sia dei privati che della protezione civile hanno permesso di far uscire la cosa. Il livello del meschio è calato, perché pensate che in 30 minuti è passato da 1,5 metri a 3,5 metri. Sicuramente avremo bisogno di una collaborazione maggiore con i comuni del vicino Veneto e anche con Enel per l'apertura o meno delle paratie e delle dighe. Diciamo che sicuramente la protezione civile ha fatto circa 40-45 interventi fra sacchi e pompaggi ed è andata avanti fino all'1:30, 2 di stanotte, e stamattina di nuovo sul territorio. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine questa sera al Teatro Nuovo il concerto finale di Suns Europe, momento culminante del Festival delle Arti in Lingua Minorizzata, organizzato da Cooperativa Informazione Friulana con il sostegno di Regione, Arlef, Comune di Udine e Fondazione Friuli. È il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata, vetrina delle migliori produzioni artistiche fra musica, cinema e letteratura. Suns Europe si avvia alla conclusione della 10ª edizione, dove si sono esibiti gruppi musicali che hanno cantato in una delle lingue minorizzate dell'area alpino-mediterranea, ma anche testi letterari che hanno espresso con visione e parole identità esistenti e resistenti, prodotti di alta qualità, apprezzati da un pubblico variegato. Leo Virgili, direttore artistico di Suns Europe. C'entra in pieno quella che è la nostra filosofia storica, ovvero di portare a Udine una nuova generazione di artisti che hanno fatto la scelta coraggiosa di esprimersi nelle proprie lingue di minoranza e di rappresentare la propria identità tramite l'arte e la cultura. Questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21, gran concerto finale, dove calcheranno per la prima volta il palcoscenico la comunità arumena rappresentata dai Tumbe, la punta di diamante di un importante risveglio culturale attorno a questa lingua diffusa nei Balcani. Ritorneranno i Galles con gli Inis e non mancherà una rappresentanza iberica con Mice, con la sua musica tinta di atmosfere cupe. Portiamo 9 lingue diverse, 9 lingue minoritarie diverse sul palco del Teatro Giovanni da Udine questa sera, che rappresentano anche 9 stili, 9 generi musicali diversi. Si va dal rock al pop, alla musica sperimentale, all'hip hop, chi più ne ha più ne metta, proprio a dimostrazione che con queste lingue antiche ci si può confrontare benissimo anche con forme di comunicazione moderne. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà Anna Torretta ad aprire la 22ª edizione di Leggi Montagna, il premio letterario promosso dall'Associazione delle Sezioni CAI di Carnia, Canal del Ferro e Val Canale. Alle 21 al Cinemateatro Daniel di Paluzza. Torretta è guida alpina, pluricampionessa di arrampicata su ghiaccio, scrittrice e da sempre promotrice di un alpinismo inclusivo. E c'è il concerto Aspettando il concorso Città di Porcia, dedicato quest'anno alla tromba e promosso dall'Associazione Amici della Musica Salvador Gandino, alle 18 sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone con il Gabriele Cassone Trumpet Ensemble. E si sposta a Pordenone il progetto regionale Echi dal Cotonificio con 2 appuntamenti. Il primo è oggi alla Biblioteca Civica in piazza 20 Settembre con l'inaugurazione della mostra fotografica sull'archeologia industriale del Novecento con immagini dei cotonifici Amman e Veneziano di Torre alle 18. Il secondo giovedì 24 all'ex convento di San Francesco con lo spettacolo con Carla Vukmirovic e le musiche di Davide Ceccato. Il progetto racconta la storia dei cotonifici, un tempo simbolo del progresso industriale e oggi molto spesso in abbandono o impiegati per altre finalità. Attraverso l'analisi dell'architettura e il recupero della memoria di chi vi lavorava, viene ricostruito un pezzo di storia e di vita del Friuli del secolo scorso. Ne abbiamo parlato con Silvia Lorusso dell'INSE, che ci ha spiegato come è nato il progetto. Ci siamo soffermati con lo sguardo sulla struttura, su quello che sono oggi. Abbiamo cercato di immaginare quello che poteva essere la vita degli operai, delle operaie dei cotonifici, il grande impatto sociale e culturale che ha avuto nel territorio, nelle famiglie, e abbiamo cominciato a sognare come artisti e voler proporre una ricerca anche artistica e storica sui cotonifici friulani. Ed è così che è nato il progetto. I cotonifici hanno rappresentato uno spaccato storico molto importante, raccoglievano numerosissimi lavoratori che arrivavano da tutta la regione, addirittura nel Goriziano anche fuori confine, quindi rappresentano proprio un collage di storie di vissuto molto interessante. Ma perché sono in disuso adesso? Sono in disuso adesso, è una bella domanda. Hanno attraversato vari periodi storici. Poi, dopo le guerre, c'è stata una ristrutturazione, poi siamo arrivati agli scioperi e anche alla ricerca equa della conquista salariale. Nel frattempo gli investitori hanno preferito non investire nel rinnovamento delle strutture, delle macchine, dei cotonifici, anche perché hanno cominciato alla fine degli anni 60 a produrre i fili sintetici, quindi c'è stata una concorrenza di non a livello qualitativo ma a livello economico, conveniva di più al mercato avere la disponibilità di fili sintetici e non tutta la lavorazione del cotone che al confronto era più costoso. Cosa avete imparato da questo progetto? Abbiamo imparato che innanzitutto i muri non sono solo muri ma raccontano una storia fatta di persone e che quindi di fronte agli interessi economici, alle grandi società eccetera, quello che non deve mai essere dimenticato è l'umanità. Ancora alcuni appuntamenti. Palma Nova ospita questa sera la finalissima del talent show di beneficenza Se tu sei bon al Teatro Gustavo Modena a partire dalle 20:30. Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla Onlus, la casa di Joy da anni a fianco dei bambini con malattia oncologica e delle loro famiglie. L'ingresso è offerta libera, ma è necessaria la prenotazione del posto su www.setusesbon.it. Ultimo fine settimana a Cividale del Friuli per la rassegna Incontri dal titolo Identità, conoscersi e riconoscersi. Oggi protagonista lo scrittore e attivista codroipese Michele Guerra, che alle 17:30 nella sede SOMSI presenterà il suo libro Il mio nome è Rosa Parks. Continua anche questo weekend a Valle di Sofumbergo, comune di Fedis, la festa delle castagne, chioschi aperti e musica fino a sera con il trio Matayura, alle 15 passeggiata nel bosco con raccolta delle castagne. Istituito il senso unico di marcia dalle 8 alle 20 nel tratto di strada comunale con Loredo di Sofumbergo, Valle di Sofumbergo, Canal di Grivò. Ora lo sport, il calcio in Serie A, ottava giornata di campionato che torna dopo la pausa per le nazionali. L'Udinese giocherà a San Siro contro il Milan alle 18. L'allenatore bianconero Rugnajc potrà contare sul ritorno di Lovric, che dovrebbe essere subito in campo, e di Pagero, che dovrebbe partire però dalla panchina. Non ce l'ha fatto Van ad affiancare Lucca, ci sarà Brenner. Abbiamo sfruttato bene questa pausa, ha detto Rugnajc, faremo tutto quello che potremo per mettere in difficoltà il Milan. E in Serie C la Triestina invece affronta in casa la Virtus Verona all'inizio alle 17:30. Per gli alabardati, ultimi in classifica con l'Arzignano, è necessario fare punti. I tecnici Geppino Marino e Stefano Ciofani, probabilmente alla loro ultima partita, dovranno fare a meno di D'Urso, Voca, Thordarson, Ballarini e Bianconi. Sugli spalti ci sarà anche, ma manca ancora l'ufficialità, il prossimo allenatore della Triestina, il catalano Pep Clotet, alla sua prima esperienza in C, che dovrebbe cominciare lunedì. Domattina l'appuntamento con le nostre rubriche in televisione alle 11 su Rai 3 a diffusione nazionale, la nuova puntata di Est Ovest, il magazine sull'Europa che cambia. L'Ungheria in questo semestre presiede l'Unione Europea. Nel Parlamento di Strasburgo aspro scontro tra Viktor Orban e Ursula von der Leyen. I Moldavi oggi con un referendum decidono se aderire o no all'Unione Europea. Ai microfoni di Est Ovest il ministro degli esteri moldavo Mikhail Popshoi. La situazione in Ucraina, l'offensiva russa, le incertezze della NATO e la situazione diplomatica, uno stallo che riempie i cimiteri. Il lavoro e l'impegno dei volontari di Bitonto per aiutare i profughi e le famiglie ucraine colpite dalla guerra. I Butch Cassidy, un duo di musicisti serbi che con il loro rock indie riempiono le sale e spopolano nelle playlist delle radio in tutta la ex Jugoslavia. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Su questa frequenza, subito dopo la prima edizione del GR regionale della domenica, andrà in onda Vita nei Campi. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani in apertura a Tolmezzo il Festival regionale della pezzata rossa italiana. A seguire per la rubrica su agricoltura e cibo l'evoluzione della iota antica a quella moderna, allevamento e cambiamento climatico, interazioni che richiedono una serie di considerazioni, il ruolo storico e gastronomico della pianta del pepe e delle sue bacche, e ancora nella rubrica del vino le particolarità della macerazione